Allora, parliamo della vocazione, Elisa. Tu la sentivi questa vocazione, giusto? Che, però non ho capito se era scrivere o entrare in guardia di finanza. Ma allora è stato... Io sin da piccola, sin dalle elementari, volevo fare la scrittrice, assolutamente. Sì. Ho avuto la spinta dei miei professori e anche di un altro ragazzo e mi hanno detto... Un altro ragazzo inteso, un altro fidanzato? No, un mio amico mi ha detto, sì, okay. È bellissimo quello che scrivi, pubblicalo. L'ho pubblicato... Sì. E potrebbe entrare nei libri infami di Nicoletti, che fa la trasmissione Meloga la mattina. Cioè, ecco, lo conosciamo bene. Senti, dici il titolo almeno. È un po' lungo, lo lascerò sulla pagina di Facebook, perché è davvero complicato da dire così alla radio. Cioè, fammi capire, Lisa, scusami, tu hai scritto un libro il cui titolo è complicato da ricordare? Non è complicato da ricordare, che è lungo, è un po' articolato, insomma. Ma provaci. Allora, si intitola Il lungo inverno di Saffron, è un fantasy. Ma scusami, non era così difficile da ricordare, Elisa, perdonami. Ma non so, è che io di solito quando lo pronuncio la gente se lo fa ripetere una seconda volta, quindi... Senti, ma tu ce n'hai una copia da mandarmi? Certo. E allora guarda, facciamo così, non che io voglia a tutti i costi frequentare la tua vocazione, che forse hai già abbandonato, no? Ma no, la musa mi ha abbandonato ultimamente. La musa ti ha... O sei tu che hai abbandonato lei? No, mi ha abbandonato lei, proprio mi ha lasciato sul ciglio della strada, sto aspettando mi venga a riprendere, però. Va bene, facci sapere quando passa. Senti, pubblica sul profilo Facebook il tuo libro, mandamene una copia, perché in qualche modo è giusto frequentare le proprie vocazioni, che alla fine hanno a che fare, credo, con i propri desideri. Elisa, ti lascio andare, stavi lavorando o no? No, beh, stavo aspettando mi scaricassero il furgone. Va bene. Consegna. Niente, qualsiasi cosa dici, Elisa, apri un mondo. Ne parleremo un'altra volta.